e senza lumicino Ora nero un cammino sol più chiare delle timidi volendo Ferro, bronzo, muro, roccia Ostinata, turca, boccia Sol migliori degli timidi volendo Dunque va salutando di Barca i monti dalle flutti Dalla larga dagli timidi volendo Thank you. Yeah!

stiamo qui a stillarci il cervello sui libri sacri. Alla cina la pace ridà, Thank you.

Thank you.

Thank you.

quel nome? Quel nome? Bravo, sere, ma tu vede per adoro a vedere non può. Perché gridi? Lasciatela! forza di vecchio è morta. Oh, e lì, correndo, le spieremo tutti, l'animo peso, l'animo peso. Si vendicherò. Oh, Good. 天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you.